efficienti trasformatori. Magari gli agri condensatori li possono salutare, ma il trasformatore fate i condensatori, fa fumo bianco, però quelli condensatori quando lo si è in trasmissione, non quando è spento. Non era in trasmissione, era fermo era questa roba. Meno male che ho fatto passi pronti, capito, e se no sarebbe dice io non ho fatto a fidarmi quella sciarpa, stasera quella succedo qualche cosa, ero anche gli altri mobili e tutto. Va bene, meno male non è piatto con quella casa, non va bene. Ascolta, dammi il controllo, sto provando un bicchiere 50 in macchina di qua, come sto uscendo? E saltiamo 9+20 stai uscendo, 9+20, allora questa roba c'era appunto, come hai capito, non mi ha fatto di nulla. Sì, non ci avevi violato di veniare? Aspetta, stacco un attimo. Mi sembra che avevi più un lato più buco, se diavolo era l'altro, che si fa la valvola. Sì, io ho anche il trasformatore che è nuovo di quello, ma preciso il trasformatore, come? Eia, è preciso sì. Cambiare allora, cosa la sto aspettando? No, io ce l'ho qui il trasformatore, un attimino, ma sai che l'ho preso, ce l'ho qui, se no, era un poco, sono uguali, aggancia che va tutti i pinti. Ascolta, così ti va attaccato così. Ascolta, così ce l'ha attaccato, altro spacco. Attacca. Adesso è attaccato, qualcosa è cambiato? Sì, mi è sceso di 2 cm. Sì, già va bene allora. Cambia il trasformatore già. E così vediamo come esci. Tanto c'ha solo 2 fili di uscita a me, non è che c'abbia altro. Se in questo 2 uscite sono. Capito? Infatti il voltaggio è lo stesso, 1600 volt, non è che succede niente. Aggancia di sta tranquillo. Aspetta un attimo com'è, che vediamo come fare qui. Allora, qui c'ha 2 fili sopra. Questo trasformatore che ho levato dall'altro dell'altro linea, no, c'ho 2 fili. Poi sopra ne ha 2 e altri 2. 2 e altri 2. Vabbè, guardati, stacca il trasformatore da B-Bocciolo, ti guardi i fili, come se ce ne ha 4 o 4 ne ha. E i colleghi, capito? Tanto non penso che ci siano altri cavi da collegare. Controlla un pochettino, sono 2 del circuito della valvola e 2 del coso. Controlla. Stacca la piazza del B-Bocciolo e te la cogli subito, anzi. Una volta che stacca il trasformatore, noi possiamo collegare i fili, tanto il collegare l'altro si è a posto. Allora sono diversi, Antonio, diverso come trasformatore un po'. Hai capito? Allora qui c'ho 6 fili in tutto. Allora ce ne sono 2 sopra e poi ne ha sotto 2 e altri 2, cioè questo che ho io. E la stessa cosa è quello, però bisogna vedere io, quei 2 di sotto, Antonio, dopo li collego e sono di diverso colore. Non te lo so dire, se avessi in questo momento. Non lo so. Comunque, controlla quello là dove è agganciato nel circuito, controlla il tipo di voce 131. Se è agganciato ai diodi, quello è l'alimentazione per la valvola. E come si chiama poi? L'alimentazione può essere anche che va la pene, capito? Questo l'ho misurato, Antonio. L'ho collegato alla corrente e in una coppia di cavi di là, di quelli di sotto, nei piedi dei cavi, con la sono viola, cavetta migliore, 2 fianchi sotto, quelli azzurri di sopra, quella è l'alimentazione. E quelli viola, Antonio, misurato, l'ho alternato e mi dà quasi cambiato solo il condensatore e basta, io non ho fatto altro. Dovete, vabbè, non c'è lo schema del duplice tutto, te la accorgi subito quando ti fosse in uscita. Io sono Antonio, quello lo so, però come trasformatore tu mi garantisci che se glielo attacco è uguale? Dovrebbe essere uguale, se monta una valvola sola, per forza deve essere uguale, dovrebbe avere la tensione all'unica e all'altra, dovrebbe essere uguale, non lo so. Tu controlla quel lineare che c'hai, tutti e due, e ti controlli le tensioni, ti sono scritte nello schema elettrico, mi c'è qualcosa sbagliato. È in corso, però Antonio, quello non posso più collegare nulla, che è in corso, il come si chiama, il trasformatore del 131 in corso, perché ho pensato di attaccarlo e mi ha fatto saltare il fusibile che c'è sopra la valvola. Ah, allora è in corso quello, va. Vabbè, se vediamo un po' se riesco a buscare in uno di trasformatore di buce 131. Poi io ce l'ho questo, ed è lineare, è capito, ha una valvola che è montata la L519, il trasformatore questo c'è, era del lineare che è montata una valvola L519, però come, come si chiama, bisogna vedere il come collegare, perché sono di questo colore, capito, quelli del 131. Allora io qui ne ho due che sono violetto e sono rossi, poi io vicino a quello due bianchi che sono fini a voi. Quei fili mi sembra sono agganciati al diodo, se non mi ricordo male, è 231. Sì, al diodo sono attaccati. E sono cioè, tutti e due precisi che li inquietta una parte o l'altra, sempre precisi sono. Via, quindi sono della tensione 1600 volt sono, hai capito, per poter avere la tensione la valvola. Sì, quelli fili stai dicendo. Via, quelli fini, sono agganciati ai diodi, quello lo ricordo perché quando ho staccato i condensatori c'erano agganciati i diodi e quei due fini lì c'erano agganciati, quei fini. Stavo dicendo a Tomè che invertendo la polarità di questi fini, cioè o che li metto in una maniera o nell'altra, sono sempre precisi. Via. Gli altri lo stesso, gli altri due violetti sono la stessa cosa. Io provo a attaccare, se scoppierà tutto, però può sempre succedere. Nulla che succede, sta qui. Che io, non so come si chiama, accendevo, però direi a me, poi io se lo misuro l'altro da 70, i fili violetto grossi danno quasi 70 posti, invece quelli bianchi fini in tensione non me ne danno molta, non lo so perché. Perché quello alimenta il calcio della valvola, allora la tensione è più bassa, molto ma molto più bassa. Io provo a vedere di salire il conflitto. Ma tu bene lo conosci il 131 di alimentazione? Bene, no, adesso, perché non ce l'ho avanti, se l'avessi saputo avanti, avrei tutto anche bene, cosa ne so? Io non ce l'ho ancora neanche macchina, se l'ho già in casa da fatto, no? Capito, non so la macchina, se no l'avevo fatto un salto e l'avevo cambiata in un attimo. E come è grande e preciso da trovato le sono come che, ripeto, è capo di un casino e qui salta tutto di là di essere comodo. Ah già, adesso questo l'avevo fare proprio un tubo, già lo sai. Preferisco contare che fare baracchini. Dicendo, quindi Antonio tu dici che se io sbaglio questi fili che c'ha sotto cosa succede? Tu guardati uno e guardati l'altro, c'erano i fili, no? Taglia i fili al trasformatore, lasciateli nello stampato agganciati, non fai altro che togliere da uno a uno, i fili ti riguardi, quelli fili ti agganci i fili, e quello grosso ti agganci i grossi, eccetera. C'hai anche l'ingresso della 220, no? Quello di questa della 220 sono i due fili azzurri che c'ha, quello lo so, perché fanno l'interruttore, come si chiama. Però stavo dicendo anche a me una cosa, il conducente non c'ha due fili rossi di uscita e due fili gialli, e quello lì è che sono, hai capito? C'ho paura se da qualche casino io. Cosa vuoi dire? Io non so cosa dirti adesso. Prova, se no me lo porti a casa e te lo faccio vedere tutti i giorni. la sua, vai, per riprenderla a casa. Perfetto, non si ha detto a poco. Io sto andando lì, su, aspetta. Rafa, io ti saluto, prima che ti parlo, rinnovando i saluti anche al Pinocchietto Nuovo, dai, buon proseguo di chiamata, ci sentiamo alle prossime, ciao ciao, buona fine. Se mi dà fastidio, non manco io. cosa colpire tutti i giorni di domani, gli anguilli, come si può fare questo complesso, gli anguilli, questo rubino complesso, e se non è un tipico così novizi sa radio, ma per lei, porca miseria, a volta già mano, a casa appaio con gli affidati, e di sottolineare a lui il Grazie. sia giustificabile, appunto, lo capisco di cosa è successo, e funziona via bene, non mai da radio, cioè.